Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale dei DJ del ristorante Convento. Buon ascolto. Ehi, sì, eccoci qua. Abbiamo cominciato così di corsa. Di corsa, infatti. Siamo sempre di corsa. Siamo collegati? Siamo collegati. Ma siamo anche colleghi, siamo collegati, io te? Siamo collegati. Un attimo solo. Perché sento suonare il campanello? Io non ho ancora sentito. Sono in anticipo. ho le audio. Attenzione! Adesso l'hai sentito anche tu? No, io non l'ho sentito. Prova ad aprire la porta. Aspetta, vado ad aprire la porta allora. È bellissimo. Esatto. È uscita bene, secondo me. Comunque. Attenzione, stanno suonando. Sì, chi è? Si è aperta la porta. No, colpo di scena. Colpo di scena. Chiudiamo bene le porte. Bellissimo. Abbiamo l'inquilino della porta accanto. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Ma ecco. Lo vedono? Lo vedono? Si deve abbassare un po'. Ecco, troppo. Amore alla terra, così. Troppo. Questo è il figlio, per me è il figlio. Attenzione, ha alzato il cric. Eccolo qua. Eccolo, signore e signori, è eccolo arrivato. Qua. Il tanto atteso vicino di casa, Che fai? Parla in playback. Cosa sta facendo? Si sono rotte le uova? Cos'è? Che rumore era? Sono gli applausi, sarebbero? Sono gli applausi, Ah, questi sarebbero... Tutta la gente che... Yes, I do! Oh, alzate volume! Signore e signori, siamo qua in compagnia di Carlone. Poi, Sandrino, ovviamente. E Mr. Dave. In qualità di regia. Molto regia. Però abbiamo una sorpresa, appunto. Stasera abbiamo la diretta su YouTube, giusto? Esatto, siamo in diretta su YouTube in questo momento. Quindi c'è un evento straordinario, quindi siamo dovuti potremmo condividere sul tuo Facebook in questo momento istantaneamente. Quindi posso invitare tutti i parenti. Ma subito in questo momento, sì, Gli avviso. Io direi che... Intanto passami il cellulare che chiamo su di mia cugina. È tuo. È direttamente da Bari. Comunque Carlo Parente può invitare tutti i parenti. Sì, in arte. Esatto. Sì, perché in questo momento sono disarmato. Ah sì? Sì, poi vado su in console. Eh sì. Mi spoglio. Ulla. E basta. E va, finita lì. Tutto lì. La suspense è finisce lì. Eh sì, perché poi dobbiamo dare una continuità alla seconda puntata. Quella suspense. Diciamo che adesso sei arrivato in pantofole perché ti aspettavamo in pantofole. Non ho capito come mai la tua maglietta è più bella della mia. La mia è più capodanno della tua. Sì, secondo me perché la Enza l'ha stirata, la mia non me l'ha stirata. È quello. E poi no, perché tu sei più veterano, più vissuto, hai fatto più capodanni qua al convento e quindi è un problema. Ci sono i segnali della... Mi stai dicendo che è un problema? No, che è un pregio. Sei... Perché mi guardi con la faccia schifata? È perché ti sei irrigidito il capezzolo. Si vede? Mamma mia. Signore, giustamente. Senti, abbiamo Mr. Dave che... L'abbiamo emarginato. Sì, l'abbiamo tagliato fuori. Più vicino al microfono. Più vicino al microfono. Aspetti, mi abbasso. Ma sì, scusatemi, ma ieri che parlavo? Esatto, ma ieri c'era chi ha parlato. È vero, sì. Scusa, perché mi tocchi? Il microfono che ha... Va bene così. Buongiorno, saluto tutta l'Italia che ci ascolta. Mi stai sfortunando il microfono. Sì. Aspetta che... Sì, ha bisogno di olio. Sì, è bello della diretta. Ecco, manca Stalio? Sì. Allora, sì. Allora, stasera è sabato? Sabato, special guest DJ Carlone. Sì. Dopo, è un sabato italiano o un sabato qualunque? Sabato qualunque, qualunquismo, perché poi stasera 3.60. In che senso? Vuol dire un looping? Un giro. Poco prima con mio figlio stavamo studiando matematica a 90. Ho fatto 90 per 4, 3,60. ti sei girata la situazione. Mamma mia, questa è vero, matematica. 9, 18, 27. Caro mio, è in quinta, quindi diciamo. Partito in quarta. Mia figlia mi ha interrogato, 7 anni mi ha interrogato. E che cosa ti ha chiesto? Mi ha messo le cuffie prima. Sì, e tu la sapevi. Ha chiesto la capitale del Belgio. La capitale del Belgio. Adesso scusa, facciamo una cosa così veloce. Sì. Allora, attenzione, super quiz alla Carlone. Ok, un attimo. Sì. Attenzione. Suspense. Esatto, c'è. Ricordiamo Dave in regia, Dave in regia c'ha il jingle giusto al momento giusto. Ecco. È partito lo show. Benissimo, bravi, bravo, concorrenti, bravo. Ben arrivati questa sera. C'è il super quizzone di Carlone. Allora, alla mia destra abbiamo Sandrotto. Non è italiano? No, vengo dal sud. Dal sud? No, ah no, è vero, sono italiano. Italianissimo. Allora, invece alla mia sinistra abbiamo niente proprio di meno che questa sera il super campione che si vuole riconfermare per la serata. Quindi abbiamo Mr. Dave. Bravissimi. Non è giusto? Cioè, fa la regia e si mette la sigla a suo favore. Perché è il campione. È il campione. Bene, bene. Scusatemi. No, ma ci voleva, no. Ci voleva. Perché giustamente dobbiamo rendere una cosa molto più di peso, più importante. Allora, posso dire come no. Nella pubblicità del tonno riumare, sì. Ci sono due canzoni però. Io lo spiezzo in due. Sì, sì, puoi dirlo, puoi dirlo. Ok. Non fa male. C'ho il grissino. Sì, va bene. Allora. Ok. Allora, domandone da 1000 euro. Attenzione, il primo che si prenota deve dire A. Ah. Ok? Quindi se sapete la risposta deve dire A. Ah. Allora, attenzione, la capitale del Belgio. Ah. Ecco, si è prenotato Mr. Dave, il campione. Il campione. Helsinki. Bravissimo. Perché? Bravissimo. Ma mi sembra un po' pilotato il gioco. Lei faccia silenzio. Che va, posso contestare? Eh? Vabbè, non può. A questo punto potremmo introdurre. Sì, perché lui è straniero e non può contestare. La prossima canzone. Voglio i miei diritti. Torniamo in dopo. In pratica, sì. Abbiamo. No, Baby Kay. Ah sì, Giusy Ferreri. Ah sì, Roma Bangkok. Scritto da Baby Kay. Radio Convento. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso. Perciò parliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare. Partire e tornare senza sapere quando. Andata senza ritorno. Ti seguire fino in capo al mondo. All'ultimo secondo volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo volerei da te, da le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere senza sapere quando. Eccoci, bentornati, il trio delle meraviglie, ci scartiamo a vicenda? No, ma io non c'entro. Lui è regia, Quindi è un bio. Lui è escluso? Siamo naturali. Il panettone ce lo dividiamo io e te. Siamo io e te, non siamo bio. Che bel momento. Quindi siamo bio. Possiamo anche insultarci, che tanto non... È una cosa tra me e te. Sì, allora possiamo dirlo che siamo in diretta? Ma dillo. Sì, dispari. Pari. Bim bum ba. Allora, e dice, hai vinto tu. Allora, volevo ricordarvi ai nostri amici, specialmente agli amiconi che sono a casa, che magari non sanno cosa fare, magari vengono e entrano nella mia pagina Facebook, potrebbero ascoltarci in diretta da come Todino Nato. E sarà bello, e sarà bellissimo perché su YouTube. YouTube. Tu hai condiviso YouTube. Quindi è bene che condivide. Nel momento in cui uno entra nella mia pagina, clicca su Convento o sulla esatto. Fuori giustamente da YouTube e ci vede. vede, ci vede, cioè quello che stiamo facendo in questo momento. La sfortuna che ci vede in diretta. Beh, sono momenti toccanti, specialmente cioè. I tuoi occhiali, guarda, sono a sballo da urlo. Ti piacciono? Sì, cioè, sei da cubista. Stasera mi fai da cubista, guarda, sarei veramente felice assai assai. Sono protettivo, no, perché avevo le lenti, ma quando ti ho visto mi sono esplose, non credevo ai miei occhi. Quindi non possiamo fare la limonata tergicristallo con purtroppo stasera possiamo farla noi. La cera. Dai, la cera. Esatto, stasera è tutto così, Non volevo dirlo, però prima di arrivare qua ho guardato un pezzo di Karate Kid 3 che l'avrò visto 30 milioni di volte. Casualmente, tra l'altro. Casualmente. Indovina su che canale? Lo stesso. Sempre uguale. Sì, fanno un riepilogo, riavvolgono il nastro, lo rifanno riandare. Comunque si è pulito tutto il salone delle auto che aveva, maestro Miyagi. Sì, che poi io dico, uno che mi chiede, cioè, puliscimi le auto, no, ma prima di... Scusatemi, ma... è un po' sfruttamento minorile. Questa è schiavitù, questa è veramente schiavitù. Allora, no. No, ma dimmelo prima il tuo scopo finale. E farti tutto il salone lucido. Allora, adesso io vorrei mettere qualsiasi persona davanti a questo signore, no? tu devi fare questo, sì, arrivi alla fine serata con lo stuzzicadente in bocca. Sì, hai imparato il karate. Però il mortasci, dunque. Eh sì, perché lui era c'aveva questo accento chiaramente meridionale perché è il maestro Miyagi. Cioè, oggi dice metti la cera, sì, la cera, togli la cera, sì, vai a farlo al parco giochi, poi vedi come ti esatto. Tra l'altro è un tuo predecessore, perché è stato il primo a fare il gioco del dipingi lo steccato. Sì, anche ma che bei momenti abbiamo tirato fuori dal cassetto, una cosa un po' vintage di qualche anno fa, i nostri bei momenti passati insieme. Eh sì, quando facevi fare su giù. E poi noi facevamo lo scherzetto che tiravamo via la banana. Esatto. E c'era quel momento di bollino rosso, perché siamo ancora in fascia protetta. Magari metti che c'è qualche bambino che ci ascolta, dice che ci sono due passanti, salutiamo dopo. Adesso sono attaccate alla cintura. Sì, adesso che pezzo mettiamo? Mettiamo per la gioia di Carlone, DJ Carla. One, esatto, Carlone. Per gli amiconi, un classico degli anni 80. Ma sì, ci può stare. Electric Light Orchestra, 1979. Quindi siamo lì. Last Train to London. Siete preparatissimi? Io non so niente, ma neanche a leggere riesco. Ho il vinile. C'è il vinile? La indovino con tre. Yeah. Dopo questo pezzo siamo ritornati in diretta, siamo sì, mamma mia. Con DJ Carlone, special guest ricordiamolo, vero, special guest Sandrino, sì, come conducente conduttivo. No, siamo tutti conduttori, ha bisogno di me perché si avvicina sempre di più. Sì, sento lo smerigliamento, il calore. Voglio smerigliarlo, il calore. Me lo, allora, fuori onda parlavamo della musica anni 70 che insomma ha lasciato un segno incredibile. Mi è arrivato. Allora, soprattutto per quanto mi riguarda, considera che io andavo a ballare a 12 anni, ballavo Stayin' Alive quando è uscito nel 1977 nelle discoteche, proprio è stato il pezzo che ha cambiato un po' la storia della musica alla fine. Veramente, andava via. Perché alla fine i pezzi prima, negli anni, erano tutti pezzi di protesta, no? Con l'uscita della Febbre di Sabato Sera sono cambiati proprio anche i testi, no? Si parlava più d'amore, più di, cioè, capito, meno di Mister per cui. Per cui i Bee Gees hanno cambiato, insieme ai Tavares, insomma, hanno cambiato un po' il modo di scrivere i pezzi. Quindi ti ha cambiato anche mentalmente, ho pensato più di fare all'amore, di fare più all'amore. A 12 anni, tra l'altro, Carlone è sempre stato avanti. Mamma mi giocava a carte con la bidella. A 12 anni a 12 facevo l'amore. Penso andavo col pulmino. Andavi. Ma guarda, il 911, quello della Fiat, no, quello che avevano i carabinieri. L'H1. La camionetta, l'H1. Quindi, insomma. Ma è vero che poi tutti facevano così? O no? Cioè il movimento quello. No, ognuno ballava. Si ballava un po' come il latinoamericano, quello attuale. Se tu vai a vedere anche nei film degli anni 70, sì, il ballo era un po' come il latino. Ah, ci stava. Vai a vedere. Anzi, l'ho visto su un film, quello di Bud Spencer e Terence Hill. E aspetta, il titolo era Pari e dispari. Se tu vuoi vedere il film Pari e dispari, cioè proprio loro ballano negli anni 70. Andavo bene. Anche la sorellella è contenta. È l'amica della Enza. Esatto. E quindi, esatto, se noi andiamo a curiosare, poi andiamo a vedere questo film di Bud Spencer. C'è, sì, proprio un pezzo dove si ballava, e si ballava come ballano adesso del latinoamericano. Ma dai, sì, negli anni 70 si ballava come il latinoamericano adesso. C'è David che ti guarda con ammirazione, sì, no, che ti stai facendo. Ma mi sta guardando qua, andiamo bene. C'è ammirazione, c'è ammirazione. E devo dire che poi alla fine la musica è stata la mia passione fin da sempre. Insomma. La musica non porta odio, è solo poesia. Quindi ce lo vuoi introdurre tu? Il prossimo pezzo? Attenzione, ma paura, Ulla, parlavamo colpo di schiena, della febbre colpo del di sabato schiena. Sera. Chi non batte le mani, 70. Che fai? Quello conta, Stayin' Alive. Stayin' alive, stayin' alive, stayin' alive. I, 1977, quando usciva sta meraviglia di album che ha fatto la storia della musica. Pensate che il film l'ho visto anche di un paio di mesi fa, il film di Tony Manero. Mi è dispiaciuto il finale, io mi aspettavo un finale diverso, me lo ricordavo diverso il finale. Gli ha rubato le scarpe? Quando John Travolta non era contento della sua vittoria, perché alla fine insomma si accorse del baro. Però ora cambiamo genere. Cambiamo genere. Andiamo in tema. Dai. Andiamo in tema. Siamo in rosso. Lancia? Sì. La lanciamo? Andiamo? È stato il successone del 1984. Inaspettato, tra l'altro. Inaspettato. Pensa che quando questo mostro sacro, che è George Michael, giusto? Michael fece questo pezzo. Cioè, erano i Wham. Però alla fine era, insomma, i Wham sono George Michael. E lui? Lo presentiamo, il pezzo che praticamente ha caratterizzato l'estate. L'inverno. L'inverno 1984. Save me from tears. Marini, Wham! Allora, abbiamo un ospite. Questo sì, Radio Commento, Wham! Abbiamo DJ Carlone. Nel frattempo è arrivata la vicina di casa che si lamentava anche per gli schiamazzi che stiamo facendo. Diciamo che avevo aggiunto un posto. Ah, aggiungi un posto a tavola che c'è una vicina in più. Una vicina in più. Come ti chiami, vicina? Ciao. Nadia. Nadia? Sei singola? Andiamo. Vista mare? Andiamo. Ci siamo già visti da qualche parte? Uomini e triglie, no? E tal. TV, sì. Tranquilla, proprio. Sì, sì, no. In realtà aveva finito, gli serviva una prolunga ed è entrata per quello. No, chiedeva. Allora, diciamo la verità, siamo stati sposati per 6 ore. Ah, è vero, siete marito e moglie. Poi ci siamo a tempo. Malvisti e finita male. E comunque vi stavo raccontando questa storia del fidanzamento a tempo. A tempo. Cioè, praticamente il concetto Ma l'hai letto o hai visto? No, l'ho letto nel libro. Praticamente il concetto è quando tu ti fidanzi c'è un periodo bello, poi dopo scema un po' tutto. Quindi hanno detto facciamo questa cosa di fidanzarsi a tempo e poi ci lasciamo prima che subentri Se si innamorano prima? Infatti hanno fatto tempo apposta per vivere quel momento bello. E poi lasciarsi facilmente senza che ci sia sentimento, quindi la fatica. Quindi la porta. Ci sta, anche come tentativo, bello, no? Come prova. Mi piace. Come finisce la partita? Allora, facciamo la partita. Attenzione, la vicina qua è polemica. C'è polemica, ma è giusto. Ci sta. Sì, c'è polemica nell'aria. Alla fine è come una partita secca. Esatto. Cioè, i 90 minuti, basta, ognuno a casa propria. Esatto. Così facciamo la nostra partita. Si fa la doccia, magari io con lei. Però non è una questione di sesso, è una questione di relazione. Ti piace? No. A me mi parlano stronzato. Ecco. È tipica del sud anche questa ragazza, si sente. Perché che è una italo, una napoletana. Però a sentire solo questo. Comunque è così. Mi piaceva il fatto che eravamo partiti negli anni 70, abbiamo 80. Conosciuto George Michael che fece questa meraviglia, l'ha tirato fuori dal suo cilindro. Poi per concludere facendo stiamo finendo il programma. Sta finendo. Come l'estate, tra l'altro. Esatto. L'estate sta finendo. Come anche il Natale. Se ne va. Anno. Sta diventando grande. 85. Forse non mi va. 85. L'hai indovina? L'hai indovinata? Dai numeri. Stasera giocate gli 85, 86. Sulla ruota di Bari. Pensa che mia mamma gli aveva dato due numeri. Sono mica usciti. Non sono 84, 88. Sì. Perfetto. Ok, torniamo a noi, quindi l'estate sta finendo. Abbiamo fatto gli anni 80 e adesso siamo negli anni 90, giusto? Sì, siamo negli anni 90. Sì, perché andiamo in crescita. In crescita, infatti. In aumento andiamo. E quindi cosa ci propone? Cosa offre la casa stasera? Aragoste. No, ma la casa musicale intendo. La casa musicale, allora io direi che possiamo chiedere alla regia cosa ha preparato come ultimo pezzo della serata. Un classico degli anni 90. Dai. Si chiama, che potrebbe mettere tranquillamente la corona. Sì. Quindi This is the rhythm of the night. Perfetto, la vicina è scollegata totale. Tanto è stata rivista, no, ultimamente questa? Rivorcata troppe volte. Ma quella, il remix ultimo è bellissimo. Balvin, ritmo che insomma l'hanno molto rallentata. Sì, ma di chi è? Questo è tutto? L'ha rifatta Balvin. Ah, Balvin. È Black Eyed Peas, io intendevo quella. Sì. Balvin è quello che sono insieme. Fa i cartoni animati? Sono io dico Balvin perché Balvin è un ragazzo di reggaeton, per cui insomma uno che fa reggaeton, che si è spostato alla fine della musica dance. È stato proprio cultura. Una cosa non c'è verso, Nadia, infatti anche noi DJ abbiamo pensato cosa ci fa questo. Non puoi sfidare un DJ, cioè, non sfidate Garlone, quindi io vi devo richiamare all'ordine. Vi devo richiamare, torniamo a noi, salutiamo gli amici a casa. No. Li invitiamo a continuare a seguirci tutta la serata sulle interconnessioni web di Ristoradio Convento. Rimaniamo collegati. Allora, ma io più che di seguirci da casa ne inviterei a passare di qua, seguirci a casa questa roba del come materiale questa, anche perché ragazza. Ciao Claudiel. Sì, ma anche perché Sandrino sa di marzapane. Sì, stiamo salutando Claudiel. Sì, perché ci stanno mandando i messaggi. Allora io direi Che fai? Sì, aspetta, si sta avvicinando anche Ciao Claudiel. Scusate. Sono i nostri fan. Allora, sì. Allora ricordiamo Nadia, che questa sera la troviamo nelle migliori edicole. No. A 9,90. A 9,90. Ricordiamo Sandrino, il pupazzetto nuovo. E tutti per... gli autogrill d'Italia, versione natalizia. Per cui c'è anche il bipupazzetto con Mr. Dave. In omaggio. Omaggissimo. Ma se mi si schiaccia la pancia, no, non lo dico. Siamo ancora in fascia. Carlone nel presepio, ecco. Special guest anche nel presepio quest'anno. Faccio il bue. Quindi facciamo tanti auguri a tutti. Sì, buon Natale, buon Natale. E tanti bei regali a noi. Esatto. Che non mancano. Siamo stati bravi. Ciao ragazzi, auguri, buon Natale a tutti, buon proseguimento di serata. Ciao con... Sono bravi ubriaco. Ripetiamo, Corona. Corona. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. Numero uno, numero uno. Ciao a tutti. Ciao. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm.